Essere e benessere di Nicoletta Carbone. State svegli ad aspettar che la notte scenda giù, che la luna salga su. Siamo venuti grandi ascoltandole, a nostra volta le abbiamo cantate ai nostri figli, forse proprio le stesse con cui ci addormentavamo da piccoli. La ninna nanna piace a chi la canta e a chi l'ascolta, e fa bene. E la ricerca dimostra quello che le mamme di tutto il mondo, sin dalla notte dei tempi, avevano già capito. Una filastrocca cantata da mamma e papà fa bene ai prematuri. Lo hanno dimostrato gli scienziati del Beth Israel Medical Center di New York. Se ascoltano una melodia cantata dai genitori, i nati pretermine ricevono benefici evidenti. Il battito cardiaco rallenta, si rilassano, mangiano e dormono meglio. Lo hanno stabilito i ricercatori, il cui studio è pubblicato su Pediatrics, dopo aver chiesto a un gruppo di genitori di interpretare una ninna nanna per 272 piccoli appena nati e ancora ospitati presso l'unità di terapia intensiva neonatale degli 11 ospedali coinvolti. I genitori dovevano cantare per 10 minuti al giorno nel corso di 2 settimane, mentre i terapisti facevano ascoltare ai bambini suoni come il battito cardiaco della madre o quelli ovattati del liquido amniotico. Tutto questo ha avuto effetti sull'attività cardiaca dei neonati, il cui ritmo cardiaco è diminuito di 2 o 3 battiti al minuto. Non solo, anche l'appetito è migliorato durante la sperimentazione e quindi l'accrescimento del neonato. Il canto è estremamente importante perché rappresenta la familiarità, spiega Joanne Lowey, che ha guidato la ricerca. Il bambino sente la voce della madre e del padre già dopo 16 settimane dal concepimento. L'influenza positiva dell'ascolto della voce della mamma mentre il bimbo è ancora in incubatrice suggerisce di integrare in maniera regolare questo tipo di interazione tra bebè e genitori, un'indicazione che vale per tutti. Cantate mamme, cantate! Allora, le ninne nanne aiutano a crescere, i bambini ci ascoltano e la ricerca ci svela un dato sorprendente. I piccoli sentono la voce della mamma, e immagino anche quella del papà, già dopo 16 settimane dal concepimento. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Perani, neurologo e ordinario di neuroscienze all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. Professoressa, bentornata, grazie. Grazie, buongiorno. Allora, professoressa, i bambini ci sentono. I bambini ci sentono e i bambini ci sentono quando ancora sono nel grembo della mamma. Il loro apparato uditivo è già abbastanza sviluppato a partire dal 4° mese di gestazione e man mano lo diventa sempre di più, tanto che alla nascita possiamo dire che l'apparato, il sistema di percezione dei suoni dei bambini, dei neonati, sia decisamente in ottime condizioni di maturità. Professoressa Perani, al San Raffaele avete fatto delle ricerche molto interessanti, di cui noi abbiamo parlato proprio a Essere Benessere, che riguardano proprio i piccini, i bambini appena nati. Sì, è vero, è vero. Abbiamo fatto queste ricerche sulla base anche di risultati e di evidenze nell'ambito delle neuroscienze altrettanto importanti come quelli che state citando adesso. Per esempio, noi sappiamo che un piccolo bambino alla nascita è già in grado di distinguere i fonemi della lingua materna e li distingue da quelli di altre lingue, senza ovviamente ancora essere in grado di non possedere, diciamo, le capacità di linguaggio di bambini più grandi. Anzi, questo è un dato importantissimo che ci fa capire che davvero il bambino ascolta anche prima di nascere. Il bambino è in grado quindi di rilevare dei suoni importanti, la voce della mamma più che mai, perché tutte le volte che la mamma parla questo suono si espande e il bambino può percepirlo. È possibile che senta anche la musica, perché no? Forse arriva in forma più distorta, ma sicuramente può arrivare anche il suono della musica. Quello che noi abbiamo dimostrato è qualcosa di strabiliante, perché abbiamo visto che alla nascita, quindi poche ore dopo la nascita, il sistema nervoso dei piccoli neonati è già così maturo, diciamo, così capace e predisposto, tanto che stimolandolo con il linguaggio o con la musica, quindi con pezzi tratti anche dalla musica classica, musica difficile, perché il cervello del bambino, del neonato, reagisce in modo particolare e diverso, quindi ha dei substrati neurali che sono pronti a elaborare i suoni del linguaggio o i suoni della musica. Tutto questo è straordinario, quindi professoressa Perani, alle mamme, alle donne che sono in attesa di un bambino, alle neomamme, raccomandiamo non perdete questo momento, posso dire magico, straordinario, di comunicazione, di crescita, cruciale. Vogliamo allora dare qualche consiglio? Cantate ma ascoltate musica. Sicuramente, ascoltate musica, dedicatevi anche appunto a momenti di relax, perché la musica può in parte raggiungere anche il bambino nel grembo, e sicuramente dopo la nascita dedicatevi tanto, perché la musica, come si sa dalle ninna nanne, ha effetti decisamente rilassanti nel bambino, ma io sono certa anche altri tipi di musica, anche la musica classica, perché non Mozart e le sue ninne nanne. Grazie professoressa Perani per essere stata con noi. Grazie mille. Buona giornata. Arrivederci. Ed ha ascoltato con grande attenzione e soddisfazione, mi sembra di cogliere, l'intervento della professoressa Perani, Alberto Pellai, che anche lui è un professore, medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Devo dire che sono incantato dalla complessità da una parte, ma anche dalla semplicità dall'altra, con cui le neuroscienze ci insegnano una cosa meravigliosa, cioè che noi possiamo intanto costruire una relazione con il nostro bambino già quando lui è nella pancia, cioè possiamo proprio parlargli, toccarlo, entrare in sintonia, possiamo regalargli una delle cose più belle che abbiamo a disposizione, la musica attraverso la nostra voce, e questo in realtà serve a generare proprio una sintonia precocissima tra la mamma e il suo bambino, che poi diventa una sorta di filo rosso che può continuare dopo la nascita, usando la stessa voce, la stessa musica, le stesse canzoni, per ottenere per esempio un effetto di rilassamento sul bambino, ma anche sulla mamma. Infatti è un'esperienza di benessere da condividere con i nostri bambini, e non è solo una cosa da piccoli, Alberto. No, direi che è una cosa magnifica. Tra l'altro, proprio anche noi adulti, ascoltando le ninna nanne, entriamo immediatamente in quella sorta di attitudine emotiva che immediatamente ci regala benessere. Figlio bello ti vuole la mamma, con cuccite du di cuculatunna. Se non ci va lo papà si nallagna, sto figlio bello è di la Spagna. Sotto un peri di rosa marina, caccia Gesù zucchi chiante semina. Chiante semina lo basilico, sto figlio bello si tormentò. E in studio con me ho una magnifica ospite, una cantante etnica, Rita Botto. Ciao Rita. Ciao, ciao, grazie. A cui diamo proprio il benvenuto con una delle ninna nanne presenti nel suo CD intitolato Ninna O. Sì. Rita, quello che stiamo ascoltando è una ninna nanna che per me ha il profumo della Sicilia. Ti potrà sembrare strano questo commento, ma come tu ben sai e mi insegni, la musica e le parole attivano emozioni. Certo, certo. E niente, sì, è vero, questa è una canzone che dal profumo siciliano, perché è una, in effetti una ninna nanna siciliana. Le ninna nanne, non so se lo sai o se ti può interessare, è un canto assolutamente nella tradizione popolare, un canto assolutamente femminile. Oggi forse i papà si possono concedere questo lusso, ma un tempo alla donna era il dovere di compiere questa missione bellissima, ed era un canto di sola voce, si cantava, erano canti della naca, perché la naca era la culla, infatti sì. Annacare era dondolare, cullare. Esatto, oppure ninna nanne della seggia, cioè la madre abbracciava il bambino e dondolava sulla sedia, e c'era questo toc toc toc toc della sedia che in genere dava un ritmo. Certo. Le ninna nanne, come questa che stavamo sentendo, giocano molto su un ritmo, su una melodia arcaica che ritorna sempre, come qualcosa di ipnotico che induce al sonno. E quindi le mamme così si raccontavano, raccontavano anche le loro paure, i loro timori. Sì, in realtà bisogna sfatare questo fatto purtroppo. La madre, perlomeno nella condizione contadina, non aveva il tempo di dedicare tutto questo tempo e quindi oltretutto cantava un tono di voce molto alto e inseriva in questi canti tutte le sue preoccupazioni per il domani di questi figli, perché già insomma la condizione contadina significava parlare di povertà, ecco. Rita, adesso le mamme si raccontano nei forum, si raccontano su Facebook, e un tempo le mamme, quando la tecnologia non le aiutava, si raccontavano appunto attraverso le ninna nanne, quindi proprio un canto di donne. Sì, è un canto di donne. L'idea di raccogliere alcune ninna nanne in un CD l'accarezzavi da tempo e la racconti così. Mia nonna era una levatrice, faceva nascere i bambini in casa come si usava un tempo. Io di figli manco l'ombra. Curioso che mi sia dedicata alle ninna nanne. Mi sono detta che le ninna nanne sono una componente importantissima della cultura popolare. E poi sono talmente belle. Ma sentivo che c'era dell'altro. La voglia di non negarmi il ruolo classicamente genitoriale, di dare continuità al passato, di tramandare. Spero che i bimbi possano ancora addormentarsi al suono delle antiche nenie, che madri, padri e nonni se ne facciano direttamente vettori, perché è dalla voce dei propri cari che i bimbi amano essere cullati. Rita, si può dire che questo progetto tu ce l'avevi un po' nel tuo DNA familiare, diciamo la verità. Sì, è proprio buffo, guarda, la vita è strana, io non finirò mai di meravigliarmi, perché mia nonna appunto ha fatto nascere tanti, tanti bambini, io di figli neanche l'ombra. Questo è proprio buffo che poi alla fine abbia voluto invece comunque abbracciare questo argomento, forse perché ho poi occupandomi adesso di ninna nanna in particolare, ma in genere di musica popolare. La musica popolare è la musica che si tramanda, almeno è quella che si è tramandata oralmente, per cui forse sono portata a tramandare, ma ancora di più per questo fatto di non aver avuto figli, forse per vicarianza, insomma, una cerca di compensare. Alberto, una bella storia, e anche il tema della ninna nanna che cantiamo ai bambini, di solito, come ci racconta Rita, sono canti che rimandano alla tradizione, alle radici, all'identità e alla quale poi il bambino e la sua famiglia appartengono. Un canto, potremmo dire, che genera appartenenza. Sì, io penso proprio che la ninna nanna rimanga una di quelle forme musicali e poi di quelle forme canzoni che non possa essere globalizzata, perché dentro la ninna nanna intanto ci deve essere proprio il suono, ma direi il profumo emotivo della tua terra di origine. C'è un po', credo, anche la tradizione dell'essere genitori, del fare accudimento nei confronti di un bambino che si tramanda di generazione in generazione, e c'è poi un po' tutto il mondo delle tue credenze. Era molto, molto interessante leggere la traduzione italiana, io non ho potuto comprendere il testo siciliano, ma Rita ha messo nel suo libretto che accompagna il CD la versione in italiana, e tu scopri in questi testi molte cose che sono però assolutamente attuali e allo stesso tempo molto locali. C'è tutto il mondo della natura, tutto il mondo del basilico, del mondo contadino. Vedi, per questo dicevo al profumo della Sicilia. Hai ragione. Io lancerei una proposta ai nostri ascoltatori. Scrivetemi sulla pagina di Facebook o Essere Benessere @radio24.it una ninna nanna a cui siete particolarmente legati, ma motivate anche la vostra scelta. È un esercizio che potremmo suggerire, Alberto. Assolutamente sì, e tra l'altro per gli adulti riscoprire una ninna nanna della tradizione vuol dire proprio riportare la loro mente a quello stato in cui erano bambini, non erano capaci di memoria oggettiva, ma sono entrate molte molte suggestioni, molte molte emozioni nella nostra mente, nella nostra vita, che ci hanno poi reso le persone che siamo diventate. Alberto, d'altra parte, le neuroscienze dimostrano che le suggestioni emotive dei primi anni di vita lasciano un segno. Sì, è proprio le neuroscienze ci hanno raccontato che il nostro cervello è proprio fatto di due emisferi che funzionano come due sistemi che operazionalizzano elementi che provengono dall'esterno in modo molto diverso e poi che si connettono fra di loro e cercano di costruire un'armonia, una sintonia tra i due diversi dati registrati. Ti do un esempio: se tu dici a un bambino con una voce dolcissima una cosa molto poco bella, quel bambino non registra l'informazione verbale, ma registra come tu gliela stai dicendo. Allo stesso modo, quando siamo bambini, se noi abbiamo una mamma, per esempio, un po' depressa o molto spaventata, che ci guarda con degli occhi magari tristi o che un po' ci spaventano e magari ci dice anche delle cose belle, il nostro cervello non registra il significato delle parole, ma proprio quel contesto emotivo. A quel punto, mettere poi insieme i due elementi e integrarli in qualcosa che sia armonico per noi diventa abbastanza complesso. Ed ecco perché, per esempio, se tu hai avuto da bambino una mamma che ti guardava con quegli occhi tristi e intanto ti diceva amore, amore, amore, quando sei grande qualcuno ti dice amore, il tuo cervello richiama un po' quel senso di confusione di quando eri bambino. È come se due dati contrastanti entrano nello stesso momento su due sistemi. Allora, le ninna nanne che cosa fanno? In realtà ti entrano proprio dentro con quel modo delicato, con quell'armonia musicale, con quella corrispondenza di una mamma che ti sta cullando e ti vuole addormentare con una voce calda e suadente, e le due, ti generano un elemento di contesto nel tuo cervello molto positivo, che ti fa pensare al mondo come una cosa bella, prevedibile, un luogo bello in cui stare. Quindi i due emisferi si danno la mano e vanno d'accordo. Esatto. Rita, qual è la ninna nanna tua? Ne hai raccolte in questo Io CD? Io ne ho raccolte, ma ne ho fatta una, ne ho creata una mia, che in realtà è un'elaborazione sia dal punto di vista del testo che della musica di alcune vecchie, ma è poi diventata mia perché ho unito diverse cellule musicali ed è diventata mia ed si chiama Ninna O, di cui ascoltiamo un brevissimo estratto. Figlio mio, figlio d'amari, la naca ti consai per riposare. E adesso è tempo di andare a sentire le informazioni sui mercati, il meteo e poi di nuovo insieme qui con noi. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, parliamo di ninna nanne, un canto tipicamente femminile, come ci ha spiegato Rita Botto. Quando non c'era Facebook, insomma, le mamme cantavano le ninna nanne e così si facevano coraggio, si lamentavano anche un po', cercavano di... Sfoghi di donne, ma... I tempi cambiano. Adesso anche i papà cantano le ninna nanne, forse non bene come noi, perché devono un po', no? Fare un po' di esperienza, Rita, non è che si improvvisa così. Però questo è un segno che i tempi cambiano, Alberto. E tu, devo dire che aiuti papà a cambiare, quindi un po' la colpa è anche tua. Ma io sono un grande sostenitore della possibilità per gli uomini di abbracciare proprio a braccia aperte la loro esperienza paterna, per cui di non rifuggirla, di non starne a distanza, ma di entrarci e di provare non a sostituire le mamme, ma a fare da papà alcune delle cose che hanno sempre fatto solo le mamme. In linea con noi abbiamo un grande amico, io sono molto contenta che intervenga qua in questa puntata tra amici in cui si chiacchiera di figli, di ninna nanne, di donne, di musica, di parole. In linea abbiamo Giacomo Porretti, detto, come dico io, anche il più bello del trio. Ciao Giacomo. Oh, grazie Nico. Oggi voi non mi potete vedere, ma sono particolarmente bello oggi. Lo so, ma guarda, immaginiamo. Giacomo, quando... Eri alto come un vaso di gerani, che è una misura, ma anche il titolo del tuo ultimo libro, che io ho avuto proprio il piacere di leggere e soprattutto di raccontare con te agli amici di Essere Benessere, ti cantavano le ninna nanne, perché Giacomo, si dice che aiutano a crescere. Come ci sei già dato una risposta, i miei genitori non mi hanno cantato le ninna nanne, non ho mai capito perché, in quanto lombardi, si vergognavano, no? Di questa cosa qui, o per altri motivi, però dovevo addormentarmi da solo, mi bastava lo sguardo della mamma. Che diceva, dormi, e io track come un soldatino, due minuti dopo ero stecchito. Tu le hai cantate al tuo bambino? Io volevo rimediare, volevo cantare, però sono talmente stonato come una campana che quando cantavo il bimbo si agitava sempre di più. Però avevo evidentemente ho delle altre qualità, infatti mia moglie mi affidava sempre il bimbo per farlo addormentare, me lo tenevo in braccio, il calore, la morbidezza, non lo so, il mio bimbo basta che io lo cullassi tra le braccia e stessi zitto, rigorosamente zitto, e lui si addormentava, per cui... Vedi Alberto? Ma i papà, se ci si mettono, sono dei magnifici addormentatori dei loro bambini, fondamentalmente perché non hanno il sapore del latte e conseguentemente nel momento in cui tengono vicino al loro corpo il bambino sente che quella è una zona di relax dove batte il cuore, si sta al calduccio ma non c'è da mangiare, quindi se non mangi quando hai 2 mesi cosa fai? Dormi. Dormi. Vedi Rita, ecco perché hanno inventato i papà, perché potessero cullare i bambini. Però, scusate, però non potete rovinare con la scienza tutta questa poesia che mi ero immaginato. Vero. È per colpa perché non so di latte, cioè... veramente. Ma questo è Alberto Pellai, perché lui, vedi, è un uomo dalle ma scusami, possiamo dire a Giacomo che non sa di latte, ma sa di papà, che è una di quei profumi e di quelle emozioni che un bambino deve mettere proprio, deve scrivere dentro al suo cervello. E si sa che i papà sanno di Barbero o di Bonarda, no? È per questo che i bambini si addormentano. Esatto, è per quello. Senti Giacomo, sì. A te è dedicata la prossima, come possiamo, non è un animale una nanna, ma è una filastrocca. Allora, sono dei giochi infantili, giochi che vengono detti yokura, giochi siciliani. Belli, sentiamo. Nicula, Luca Petri, cicula, sopra di casi, Nicula, mancia, cirasi. Quattro più quattro fanno otto. E scarica lo cotto lascendo con gli ali, e scarica canali lascendo con gli pinni, e scarica i patini, lo latte di lo figo, domani io tu dico. Giacomo, musca, zitto, moscone, questo ce lo abbiamo, zitto, musca, potrebbe... Allora vuol dire musca, cuparra, busca, cioè mosca, shh. Questo è il gioco del silenzio praticamente. Questa è minaccia allo stato puro. No, a un padre addormentatore silenzioso, questa è la ninna nanna ideale. Bella, bellissima. Grazie a Giacomo per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a tutti voi e un augurio a tutti gli addormentatori. ciao Giacomo. Ciao. E rota sta tenda, lupani a fedda fedda, la missa ci sono e lanci lucalò. Insomma, ci sono segreti dentro le ninna nanne, dietro le ninna nanne, Rita. Di segreti? Direi aspirazioni, invocazioni. Da grande questo proiettare in avanti e dire da grande sarai forte, grande. Alberto. È proprio, se ci pensi un po', da una parte un canto della povertà, cioè un canto dove tutto quello che... Come ci ha fatto vedere Rita, no? C'è una mamma contadina che deve addormentare il suo bambino e lo deve fare magari abbastanza in fretta perché poi deve tornare a lavorare. È chiaro che se tu devi fare una cosa così importante per il tuo bambino dovresti essere lì, libera e disponibile, ma c'è il lavoro che ti aspetta. A quel punto nel canto la mamma canta molte delle sue paure, delle sue ansie, e il canto magicamente riesce ad addormentare il bambino perché è una sorta di strategia diversiva che ti porta in un altro territorio, cala l'ansia della mamma, il bambino si addormenta. Intanto però la mamma in quel canto mette, fa proprio catarsi di tutta la sua ansia, di tutte le sue paure, di tutta la sua fatica. E si lamenta anche mamma. Che il padre non c'è mai. E si lamenta, meno male che ci sono le ninna nanne. Tra l'altro Alberto, la ninna nanna è proprio una, tu hai citato una parola, addormentamento, è una delle tessere del puzzle di uno dei temi, problemi con cui si confrontano ogni giorno molti genitori, la nanna dei loro bambini. Sì, e direi che l'abbiamo visto più volte proprio anche oggi in trasmissione. Se noi dovessimo pensare a che cosa serve a un bambino, a un neonato che è nato da poco, che si deve addormentare, cioè dobbiamo proprio rimetterci nella condizione che per lui era ideale, quella nella pancia della sua mamma, dentro al liquido amniotico, dove arrivavano suoni bassi e ovattati e dove quel liquido amniotico funzionava un po' da massaggio che lo cullava e che lo faceva stare bene. Ecco perciò che una ninna nanna cantata mentre culli il tuo bambino che tieni vicino a te ricostruisce quella sorta di grembo materno in cui sei stato nei primi 9 mesi della tua vita e ti ridà quella sensazione sonora, quella sensazione di contenimento, quella sensazione di contatto e vicinanza. Noi vogliamo proporre anche le ninna nanne agli adulti, perché il ritmo, la ripetizione, la sonorità della ninna nanna, come aiuta i bambini, può aiutare anche i grandi che vanno sempre di corsa, che sono sempre affannati, che hanno mille problemi, che devono in qualche modo cercare, no? E perché vogliamo di vincere dire delle paure. Il bambino che è noi? Che vogliamo dire? Che vogliamo dire? Che noi? E poi una ninna nanna che ancora ricorda una madre che magari non c'è più e che invece ancora si prende cura di noi, sentire che qualcuno si prende cura di noi, perché al di là di tutto, al di là del testo, comunque tende al rilassamento. È una cosa che secondo me è un disco anche per adulti, al di là del contenuto. Assolutamente, sì. Ed è quello che noi vogliamo proporre anche con Alberto Pellai, che ci aiuta dal punto di vista psicologico. Ecco, fare entrare la ninna nanna, questi ritmi lenti, però queste parole ripetute, anche come una sorta di terapia del quotidiano, del nostro benessere. Possiamo farlo? Ma guarda, da una parte c'è proprio una modalità completamente oggettiva. Tu ti metti in tranquillità, chiudi gli occhi e ti lasci portare laddove la musica ti porta, e questo è un primo esercizio che automaticamente ti rilassa, perché questa è proprio una musica che tende a calmare tutto. Puoi avere anche una modalità invece molto più attiva, cioè tu puoi utilizzare questa musica come uno stimolo, dove chiudendo gli occhi ti imponi di fare la visualizzazione di una scena di te stesso bambino dove stavi particolarmente bene. A quel punto la musica entra proprio in risonanza con l'immagine che tu hai acceso nella tua mente, come se tu vedessi il tuo cervello che apre un cassettino della memoria, tira fuori quell'immagine e ti rimette lì. Istruzioni per l'uso, posologia, 10 minuti al giorno. Ma perché no? Possiamo anche esagerare. Questo chiaramente, se poi lo metti nella zona dell'addormentamento e chiudi gli occhi e provi a fare questa cosa, probabilmente ti fa entrare nel mondo del sonno. Può essere anche un risveglio, può essere anche un bel risveglio. Noi adesso andiamo a sentire, ci risvegliamo subito con le informazioni sul traffico e poi torniamo subito dopo insieme. Molti delle ascoltatrici di Essere Benessere mi scrivono tante volte perché sono alle prese con bambini che ninna nanna sì o ninna nanna no, proprio di dormire non ne vogliono sapere, ma noi abbiamo per loro delle indicazioni, dei preziosi consigli. Essere Benessere. Cammina. Io non voglio andare a letto, io non voglio andare a letto. Miki, va a dormire. Sono già stato ieri notte. Nel tempo di volte alla settimana devo andare a letto. Bambini che non vogliono saperne di andare a letto, in linea con noi abbiamo il professor Oliviero Bruni, neuropsichiatra infantile del Centro del Sonno all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Noi stiamo parlando di ninna nanne, ma ninna nanne a parte, ci sono alcuni bambini che dormono tutta la notte, altri che si svegliano di continuo, tanto che i genitori non chiudono occhio. Geni, vizi o fortuna? Ma guardi, io mi rendo conto, più vado avanti con la mia attività clinica, che i geni hanno una importanza molto fondamentale, nel senso che non abbiamo un solo tipo di insonnia. Un bambino può avere una certa caratteristica di risveglio che è completamente diversa da un altro. Se, per fare un esempio, ci sono i bambini che sono i cavalli nel letto, come dicono le mamme, cioè che si agitano tutta la notte e si svegliano la notte, oppure quelli che dormono, si addormentano tranquillamente, poi al 3 di notte si svegliano e stanno svegli 2-3 ore, quindi oppure quelli che hanno sia difficoltà di addormentamento che si svegliano tutta molte volte per notte. Quindi diciamo, dobbiamo prima inquadrare il tipo di insonnia del bambino e poi dare i consigli specifici. Senta professore, ma sì, tutto passa, prima o poi si addormentano, questo diamo tutto un consiglio passa, rassicurante sì, alle mamme, perché uno dice sì, guardi, non do- passa, è nove mesi che non dorme, dormirà, vero? Sì e no, nel senso che mamma mia, io volevo che lei mi dicesse anni. Dormirà tre. Allora, se uno se la sente di affrontare 3-4 anni di insonnia, specialmente da parte dei genitori, va tutto bene. Se invece vogliamo risolvere il problema un pochino prima, sì, ci sono, ecco, da fare gli interventi. Ecco, preferisco questa seconda opzione, professore. Quindi ci dia... Gli interventi sono fondamentalmente di cambiare delle modalità di addormentamento del bambino, cioè noi dobbiamo cercare di fare in modo che il bambino abbia la capacità e la possibilità di addormentarsi da solo, cioè dobbiamo insegnare al bambino certe modalità di addormentamento e dobbiamo insegnare al bambino a non chiamare durante la notte o possibilmente a farlo, ma in maniera molto molto più leggera rispetto a quello che fanno i bambini che si svegliano e urlano improvvisamente. Ed è ovvio che una gran parte può essere collegata, come dicevamo prima, all'aspetto genetico e una parte, diciamo il 60%, può essere legato a fattori ambientali, il 40% a fattori genetici. In questi casi noi dobbiamo appunto agire sul bambino e agire sui genitori. L'intervento immediato è sicuramente negativo sia per i genitori che per il bambino. Molti genitori hanno paura che se non intervengono immediatamente poi il bambino si sveglia completamente e quindi è più difficile addormentarlo. Questo non è sempre vero, è vero in qualche caso ma non sempre è vero. Quindi l'attesa prima dell'intervento è sempre importante. Cioè quanto deve durare? Cercare di capire qual è il ritmo del bambino. Professore, quanto deve durare? Il bambino piange, io cosa faccio? Allora, diciamo, quanto aspetto? Si attendono, ovviamente noi siamo in condominio, non viviamo nelle villette americane isolate in mezzo con un giardino di 2000 metri quadri. A questo punto conviene fare un 30 secondi di attesa e poi cercare di intervenire, quindi poi aumentando gradualmente i tempi di attesa. Il bambino sicuramente dorme in maniera tranquilla intorno ai 3-4 anni quando abbandona naturalmente il sonno pomeridiano. Nel momento in cui abbandona il sonno pomeridiano, il sonno diciamo notturno diventa molto più profondo e molto più stabile. Vorrei coinvolgere anche Alberto Pellai, che oltre ad essere psicoterapeuta dell'età evolutiva è anche padre di 4 figli. Sì, io devo dire effettivamente che ho riscontrato nei miei figli stili diversi di addormentamento e di mantenimento del sonno durante la notte. Trovo però, lavorando anche molto con i genitori, che un consiglio davvero concreto è questo, cioè ogni segnale che apparentemente i genitori decodificano come il mio bambino si è svegliato, bisogna effettivamente attendere ed aspettare, perché i cicli del sonno del bambino durante la notte hanno un'intensità, per così dire, maggiore in alcune fasi, poi è come se il bambino riemergesse un po' in una sorta di quasi semiveglia, dove magari si agita, parla, fa delle cose, ma non necessariamente si è svegliato completamente. E quindi prima di intervenire potrebbe essere che proviamo a vedere, è molto possibile che il bambino si muova poi da solo autonomamente nel sonno se nessuno invade questa cosa, e spesso anche tenere una sorta di musica di sottofondo che fa un po' da accompagnamento e in qualche modo gestisce un po', no, la dimensione, come dire, non sei lì solo, siamo in contatto, rimane un elemento di continuità dentro al buio che ti dà la percezione che sei contenuto, sei avvolto, sei tenuto, può aiutare il bambino a rientrare velocemente nel sonno. Professor Bruni, lei ha un sito in cui ha raccolto tanti consigli per i genitori che non chiudono occhio per l'insonnia dei loro bambini, lo vogliamo ricordare? Si chiama sleepchild.com, in inglese dormi bambino. Dormi bambino, è un augurio per le mamme e i papà che in questo periodo stanno passando delle notti insonni. Grazie professore per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Rita, noi abbiamo parlato di filastrocche, abbiamo parlato di ninna nanne, i bambini ci sentono, aiutano, abbiamo detto, le mamme le aiutavano a lamentarsi, aiutano i bambini anche nella fase dell'addormentamento. Dal tuo CD io vorrei che invece, e così a conclusione della puntata, tu scegliessi una ninna nanna da dedicare ai genitori che in questo periodo non chiudono occhio per i bambini insonni. Quale sceglieresti? Avò, credo che Avò è proprio la ninna nanna per antonomasia, quindi... Perché? Che cos'ha di speciale questa ninna nanna? Perché proprio ha quel suono di carry on, c'è un vibrafono, anzi, e quindi è molto ripetitiva, è molto bella. Oli fatta la naca. Con il consiglio di Rita Botto e con questa dedica a tutti i genitori all'ascolto, a voi noi vi salutiamo, ringrazio Alberto Pellai per essere stato con noi, Rita Botto, grazie. Grazie a te. Per queste straordinarie Ninna Nanne, un'esperienza veramente da gustarsi. Grazie. Grazie. Buona giornata, noi ci sentiamo domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Essere e benessere.